Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. Effetto notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Se vogliamo mettere nelle condizioni il paese di ripartire davvero, la premessa è vincere la battaglia sanitaria. Vincere la battaglia sanitaria è la prima mattonella se vogliamo far ripartire davvero l'Italia. Lo ha sottolineato, lo avete sentito, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, oggi il ministro della Salute Speranza in Parlamento, illustrando le misure che saranno contenute nel famoso nuovo DPCM, nuovo decreto del Presidente del Consiglio, che dovrebbe essere varato domani. Ci doveva essere un voto del Parlamento oggi sulla proroga dello stato d'emergenza fino al 31 gennaio e poi anche la proposta del governo, della maggioranza, quindi al Parlamento, del nuovo DPCM. Tutto è slittato a domani, però già sono trapelate alcune anticipazioni sulle misure che questo DPCM conterrà, tra cui l'obbligo della mascherina all'aperto, anche se c'erano alcune specifiche in cui si diceva la mascherina all'aperto vicino ai non conviventi. Insomma, poi ne parleremo nel corso di questa puntata, ma domani sarà la questione più definitiva. Poi, a proposito di coronavirus, ci collegheremo con gli Stati Uniti per parlare nuovamente del presidente americano Trump, che ieri, forzando, si dice, la mano ai medici, è uscito dall'ospedale. Loro dicono che non è ancora fuori pericolo, però lui ha ridimensionato ancora in un discorso alla nazione che il coronavirus, ha detto, è solo come un'influenza. Pensate che Twitter ha censurato questo poi post in cui lui paragona ancora una volta il coronavirus all'influenza. Insomma, tante cose da raccontarvi anche questa sera, quindi mi raccomando, non perdete neanche un minuto di Effetto Notte. Vi ricordo, come sempre, pagina Facebook di Effetto Notte, alla quale potete aderire senza indugio in qualsiasi momento e scrivere le vostre riflessioni sui fatti più importanti della giornata, così come le potete inviare via WhatsApp al solito numero, che è il 349-238-6666. Coronavirus in Italia, il ministro Speranza in Parlamento avverte: andiamo verso mesi non facili, serve l'unità di marzo. Oggi intanto si sono registrati 2.677 nuovi contagi con 100.000 tamponi, 28 le vittime. In attesa del nuovo DPCM salta il voto alla Camera sulla proroga dello stato d'emergenza per troppi deputati in quarantena. Tra le misure previste nel nuovo decreto, mascherine anche all'aperto e test obbligatori anche per chi proviene da Gran Bretagna, Belgio e Olanda. Economia, il ministro Gualtieri dice: non riteniamo probabile uno scenario avverso. Messaggio di Mattarella all'evento del Sole 24 Ore, in cui dice la ripartenza dell'industria è fondamentale per l'Italia. Stati Uniti, Trump giù nei sondaggi, ma lui, uscito dall'ospedale, ostenta sicurezza. Non vedo l'ora, dice, di fare il dibattito con Biden a Miami, sarà fantastico. Intanto Twitter censura il messaggio del presidente americano che paragona il Covid a una semplice influenza. Nobel per la fisica 2020, assegnato a 3 scienziati, un britannico, un tedesco e un'americana, per le loro scoperte sui buchi neri. Calcio, tutti negativi i tamponi fatti alla squadra del Napoli. Il CT Mancini rimprovera il ministro Speranza e dice: oltre alla scuola anche lo sport è un diritto. Partiamo quindi con i dati aggiornati sul coronavirus in Italia. Resta stabile la curva del Covid nel nostro paese. Nelle ultime 24 ore sono stati individuati 2.677 nuovi casi, dunque circa 400 in più rispetto a ieri, ma sono stati individuati con 99.742 tamponi, quasi 40.000 in più rispetto a domenica. 28 le vittime. In calo invece le terapie intensive. Oggi ci sono 319 pazienti, 4 in meno rispetto a lunedì. Altri 3.625 pazienti sono ricoverati nei reparti ordinari degli ospedali e 56.190 sono invece in isolamento domiciliare. L'OMS intanto dice: c'è speranza che entro la fine di quest'anno potremo avere un vaccino. Lo dice il direttore generale dell'OMS, Ghebreyesus, al termine di una riunione di 2 giorni del comitato esecutivo dell'organismo. Attualmente, ricorda la BBC, ci sono circa 40 vaccini allo studio allo stadio di studi clinici, incluso uno sviluppato dall'Università Oxford che è già in fase avanzata di test, di cui abbiamo parlato diverse volte qui effetto notte, ma il direttore dell'OMS non ha specificato quale vaccino potrebbe essere già pronto per la fine di quest'anno. Tornando all'Italia, intanto slitta domani il Consiglio dei Ministri che dovrà dare il via libera alla proroga dello stato d'emergenza. In arrivo domani anche il nuovo DPCM con le nuove misure per contenere la diffusione dei contagi. Fra quelle principali, queste misure previste, obbligo della mascherina anche all'aperto, tampone per chi arriva da 8 paesi europei ad alto contagio, tra cui anche Gran Bretagna, Belgio e Olanda, e proroga dell'app Immuni. E poi a preoccupare, ne parleremo naturalmente, a preoccupare anche il contesto economico causato dalla pandemia. Il ministro dell'economia Roberto Gualtieri stima un calo del 9% del PIL, ma dice, stando agli ultimi dati economici, il dato finale dell'anno potrebbe essere anche migliore. Lo scenario avverso riportato nella nota di aggiornamento al documento di economia e finanza, nel quale l'Italia registrerebbe quest'anno un calo del PIL del 10,5%, non è lo scenario più probabile, chiarisce Gualtieri. Sentiamo. Questo governo, come ha sempre fatto, ha presentato anche uno scenario avverso, ma uno scenario avverso che ci appare assolutamente meno probabile dell'attuale, cioè uno scenario che non è lo scenario con l'attuale incremento dei contagi che noi a oggi stiamo governando e contenendo e che confidiamo anche di poter contenere ulteriormente con rafforzamento delle misure di prudenza. E il tema della ripartenza è al centro dell'evento digitale di 3 giorni organizzato dal Sole 24 Ore in partnership con il Financial Times. Si intitola Made in Italy, The Start. Ne parleremo nel corso di questa puntata. E intanto tutti e 4 i maggiori interventi del governo in imprese e settori fondamentali della vita economica nazionale, credito, trasporti, infrastrutture e siderurgia, tutti e 4 sono in stallo nonostante i tanti annunci. Questa è la denuncia del presidente di Confindustria Carlo Bonomi nell'assemblea degli industriali a Cremona. Il governo ascolti le opposizioni perché è necessaria una condivisione da parte di tutti per uscire dalla crisi. A lanciare l'appello è il presidente di Confindustria Carlo Bonomi, che chiede alle opposizioni di non essere contro l'Europa e rilancia il patto per l'Italia. Occorre subito una strategia di medio e lungo termine per il supporto al rafforzamento della crescita e al recupero della produttività. Un grande patto per l'Italia. Non voglio un paese di commissari o di poteri speciali, ma voglio un paese che funziona, puntualizza il numero uno degli industriali. Secondo Bonomi non è possibile che in un paese normale ci debba essere un commissario, una deroga, dei poteri speciali perché, dice, tutto il resto non funziona. La riforma delle pensioni, osserva, non va fatta sulle spalle dei giovani e il salario minimo per legge non è la strada giusta. Sulle infrastrutture da realizzare per far correre l'Italia ci sono 130 opere bloccate. Siamo agli annunci, dice Bonomi. Dei 200 miliardi a disposizione, 130 sono stanziati, ma nessuno ci dice come coprire gli altri 70. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E a soffrire per la pandemia, lo abbiamo raccontato su Radio 24 in questi mesi, anche il settore del turismo. Turisti dimezzati in Italia a causa del Covid. Rispetto ad un anno fa si registrano quasi 50 milioni di arrivi in meno tra italiani e stranieri ospitati negli esercizi ricettivi, con un calo di oltre 170 milioni di presenze, cioè di numero di notti. Lo rivelano i dati Demoscopica riferiti ai primi 8 mesi del 2020. Veneto, Sicilia, Toscana, Lombardia e Lazio le regioni più colpite. Per la Sardegna Federalberghi calcola perdite di oltre i 2/3, quasi 10 milioni tra stranieri e italiani rispetto al 2019. Stiamo lavorando per aiutare le imprese, assicura il ministro per i beni culturali e il turismo Dario Franceschini all'evento di Sole 24 Ore e Financial Times, Made in Italy, The Restart. Finita l'emergenza, il turismo internazionale in Italia tornerà imponente come prima. Noi dobbiamo aiutare le imprese a superare l'attraversamento di questo deserto. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. I viaggi di Radio 24. Il nostro viaggio a tappe prevede una svolta obbligata nei modelli di Piemonte e Liguria. L'emergenza Covid-19 sta confermando la strategicità delle organizzazioni distrettuali e delle filiere che rendono meno probabili le interruzioni delle forniture. Le reti modello di Liguria e Piemonte fanno da apripista per il rilancio dei distretti. La diffusione del coronavirus, che sta mettendo a dura prova il tessuto economico nazionale, ha fatto sentire il suo impatto sulle filiere e sui distretti piemontesi, soprattutto quelli nelle catene internazionali del valore come tessile, automotive e meccanica. Difficoltà anche nel comparto vini delle Langhe, Roere e Monferrato, anche se nella filiera agroalimentare resistono i dolci di Alba e Cuneo, la nocciola e la frutta piemontese, il caffè, le confetterie e il cioccolato torinese e il riso di Vercelli, che beneficiano della grande distribuzione. E il territorio piemontese ha saputo andare oltre facendo rete tra filiere con capofila che hanno preso la loro linfa dall'università e coi progetti in corso elencati da Guido Saracco, rettore del Politecnico di Torino. Ne stiamo facendo 5, una nell'autoveicolo e manifattura 4.0, una nell'ambito dell'aerospazio, una nell'ambito della salute, una nell'ambito dell'economia circolare e l'altra nell'agricoltura 4.0. Ospiteranno anche start-up. Un esempio di rete tra distretti necessaria come l'acqua, dice Mario da Milano, fondatore e presidente di Ponte Vecchio Acque e Minerali, membro del consorzio Pinerolese Energia, che riunisce più di 80 aziende dei diversi distretti. Questa sinergia con l'università è molto importante, soprattutto per la ricerca e la formazione di personale, che sono i meccatronici, perché introvabili peraltro. E in Liguria il rilancio dai trasporti alla logistica, dopo l'esempio modello del Ponte San Giorgio, è atteso da molto, insieme al Terzo Valico, dal distretto florovivaistico al nautico al tecnologico, per fare rete con il turismo in flessione nonostante il recupero di quello nostrano. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Scuola, una mobilitazione nazionale delle lavoratrici e dei lavoratori precari della scuola è prevista il prossimo 14 ottobre nel pomeriggio davanti alle prefetture, con presidi, flash mob e iniziative che avverranno nel pieno rispetto delle misure di distanziamento. Lo annunciano i sindacati della scuola dopo la decisione del governo di avviare, in un contesto di emergenza sanitaria, dicono, lo svolgimento delle prove del concorso straordinario e a seguire di un maxi concorso con oltre 500.000 candidati. All'estero adesso ancora un brusco aumento dei contagi da coronavirus nel Regno Unito. Le autorità, riferisce Sky, hanno registrato 14.542 nuovi casi nelle ultime 24 ore. E poi, per quanto riguarda il Belgio, la situazione nel nostro paese è grave e preoccupante. I casi aumentano, il numero delle ospedalizzazioni cresce, il numero dei decessi pure, lo ha detto oggi il primo ministro belga Alexander De Croo. In alcuni ospedali ha proseguito, la situazione è veramente critica, bisogna fare di tutto per bloccare la diffusione del virus ed evitare un nuovo lockdown. Le autorità esortano a ricorrere al telelavoro il più possibile. In Spagna sono 11.998 i nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, i decessi sono 26, lo riporta il paese citando il Ministero della Sanità. A Berlino, a causa dell'aumento dei casi di coronavirus, il Senato berlinese ha disposto che locali e ristoranti della capitale restino chiusi dalle 23 alle 6. E per quanto riguarda gli Stati Uniti, il presidente Donald Trump ha twittato che il Covid-19 nella maggior parte della popolazione è meno letale dell'influenza. Ma secondo la CNN, che ha esaminato i dati dell'Agenzia Sanitaria Federale per la Tutela della Salute, negli Stati Uniti sono morte più persone di Covid-19 di quelle decedute per influenza negli ultimi 5 anni. Quindi 210.000 contro circa 178.000 morti in 5 anni per l'influenza. E Twitter ha censurato il cinguettio di Trump su questo paragone. In Italia, cronaca, maltempo, altri due cadaveri sono stati recuperati oggi in mare a Sanremo, salgono così a 9 i corpi rinvenuti da domenica scorsa dopo l'ondata di maltempo che ha devastato le Alpi Marittime. 8 quelli identificati al momento, 6 cittadini francesi, un italiano e una salma proveniente da un cimitero devastato dalle acque in territorio francese. Mentre il Piemonte rende nota la conta dei danni, 1 miliardo di euro secondo il governatore Cirio. Una nuova allerta è stata diramata per le prossime ore per il centro-nord. This year's price is about the darkest secrets of the universe. Nobel per la fisica 2020 è stato assegnato per metà a Roger Penrose, mentre condividono l'altra metà Reinhard Genzel e Andrea Goetz. Il Nobel premia la scoperta degli oggetti più oscuri e misteriosi dell'universo, i buchi neri, di cui parleremo nel corso di questa puntata. Invece una cosa piuttosto curiosa: come entrano i telefonini nelle carceri? Sapete, sono vietati, camuffati nel cibo, sistemati negli indumenti intimi, ingoiati, nascosti nel corpo, inseriti in un pallone per poi essere lanciati, trasportati da un drone, collocati nel fondo delle pentole. Nell'ultimo anno si sono registrati sempre più tentativi di introdurre microtelefonini all'interno delle strutture carcerarie. Nei primi 9 mesi del 2020 sono stati 1.761 gli apparecchi rinvenuti nelle carceri italiane, requisiti all'interno o bloccati prima del loro ingresso. ingresso. Nello stesso periodo del 2019 erano stati 1206. I numeri parlano di un fenomeno in crescita, a segnalarlo è G-News, quotidiano del Ministero della Giustizia, segnalando comportamenti che alla luce delle norme introdotte dal decreto sicurezza varato ieri dal Consiglio dei Ministri diventano ora un reato a tutti gli effetti. Per chiudere lo sport, la pandemia continua a agitare il mondo del calcio, fa ancora discutere il mancato incontro Juve-Napoli. Il segreto di Pulcinella. Così il presidente del Genoa Enrico Preziosi definisce il fatto che le ormai famigerate ASL Napoli 1 e Napoli 2 della Campania siano state sollecitate a intervenire dal Napoli Calcio stesso in vista della trasferta a Torino di domenica, poi mai effettuata. Come dire che i partenopei, a proposito tutti i negativi nuovi tamponi effettuati sul gruppo squadra, hanno mirato con precisione il possibile punto debole del protocollo sanitario definito per il calcio e lo sport professionistico e colpito nel segno. Come richiesto dalla Procura federale, il club invierà alla Federcalcio lo scambio di mail avuto con le autorità sanitarie locali. E che la tensione tra sport e istituzioni stia salendo lo testimonia pure la bordata lanciata nei confronti del ministro della Salute Speranza, che aveva nei giorni scorsi detto di voler privilegiare la ripartenza delle scuole rispetto alle attività sportive, agonistiche e di base, dal CT della Nazionale di Calcio Roberto Mancini in persona. Penso che bisogna pensare quando si parla ogni tanto e pensare che comunque per tutti gli italiani lo sport è un diritto come la scuola. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Bene, direi che la prima parte così si completa. Allora, dopo la viabilità, cominciamo a approfondire i vari temi con gli ospiti per i vostri messaggi. 349-238-6666, pagina Facebook di Effetto Notte. Torno ratta come la folgore. Intimissimi uomo, boxer a 7,90€, nei negozi e online. Vi presenta... Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E come sempre, naturalmente, subito da voi, dopo la sintesi della giornata, allora sentiamo tra poco il primo ospite e la prima ospite sul primo tema di approfondimento. Intanto vi aggiorno, ci sarà modo di farlo anche naturalmente durante la diretta, che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sarà firmato tra una settimana. È notizia che arriva adesso perché in realtà doveva essere già sottoposto oggi, in queste ore, insomma, al Parlamento. Domani ci doveva essere la firma del Presidente del Consiglio, invece sarà firmato tra una settimana, ma l'obbligo della mascherina entra subito in vigore. Adesso approfondiamo, mentre un ascoltatore, vediamo se lo trovo, questo ascoltatore al 349-238-6666 dice: conosco il diritto alla salute e quindi di praticare sport, non quello dell'agonismo e dello spettacolo delle partite di calcio. Devo dire, tutto sommato, nel mio piccolo, che sono d'accordo con questo ascoltatore. A proposito di quello che ha detto Mancini, tecnico della nazionale di calcio maschile, che ha detto a Speranza: non solo la salute e la scuola, non solo la scuola, anche lo sport è un diritto. Ma lo penso anch'io come l'ascoltatore: lo sport come diritto è quello che tutte le persone normali cittadini, ragazzi o persone adulte devono poter praticare. Quello dell'agonismo, del calcio soprattutto maschile, strapagato come professionismo, allora chiunque, anche quando chiudono, se devono chiudere i bar e i ristoranti, anche quello è un diritto allora di quei lavoratori di lavorare. Ecco, diciamo, sono questioni un po' diverse, sono d'accordo con questo ascoltatore. Adesso però, vi dicevo, oggi è stato il giorno in cui il ministro Speranza, il ministro della Salute, ha illustrato in Parlamento i contenuti del nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che vi ho appena detto sarà firmato tra una settimana e quindi non domani. In sintesi però, cosa ha detto Speranza oggi? L'Italia sta meglio rispetto ad altri paesi europei, ma la situazione sta peggiorando anche da noi. Per questo è opportuno prolungare lo stato di emergenza sino al 31 gennaio. Questo era l'altro aspetto, quindi la proroga dello stato di emergenza sino al 31 gennaio e poi il DPCM che dovrebbe contenere una serie di misure restrittive. Questa comunicazione è contenuta, questa di Speranza, in una risoluzione presentata oggi a Montecitorio dalla maggioranza. Il problema tuttavia è che è mancato in aula il numero legale e direi proprio di far sentire questo passaggio in cui manca il numero legale alla Camera. I colleghi hanno votato tutti, dichiaro chiusa la votazione. No, un attimo. Manca il numero legale. Colleghi, Non mi sembra mai una cosa da festeggiare la mancanza del numero legale. Avete sentito l'esultanza della Lega quando è venuto a mancare il numero legale e insomma Rosato, vicepresidente della Camera, che ha bacchettato la Lega, cioè da esultare quando manca il numero legale. Infatti chiedo alla nostra Betta Fiorito, cara Betta, in diretta da Roma, questo numero legale perché è venuto a mancare? Quindi non si è potuto votare sulla risoluzione della maggioranza di governo. Cara Betta, ciao. Buonasera radioascoltatori, farei un passo indietro, sì. Cioè il numero legale ha fatto clamore perché è mancato alla Camera, no? Al Senato è una prassi che chiunque si può alzare e chiedere la verifica del numero legale e generalmente manca sempre, perché magari c'è un senatore che è andato alla buvetta oppure, quindi, e poi per fare queste votazioni generalmente si prolungano molto proprio perché c'è sempre la richiesta del numero legale. Oggi però è successo alla Camera e quindi questo ha avuto anche un aspetto politico. È mancato perché chiaramente Montecitorio, come tutti i luoghi di lavoro, è mezzo chiuso per Covid, no? Tant'è vero sono 41 deputati, no? In quarantena, sì, se non sbaglio. Tant'è vero che questa sera si è riunita la giunta per il regolamento e ha deciso che saranno considerati in missione tutti i deputati che sono oggetti di provvedimento di limitazione della circolazione a causa del Covid. Che vuol dire? Vuol dire che a quel punto, quando un deputato è in missione, non viene conteggiato e quindi abbassa il numero legale di fatto. Ecco che cosa è successo. È chiaro che l'opposizione da sempre, e quindi il centrodestra fa il suo lavoro, e cerca poi di far mancare il numero legale. Aveva questo piatto ghiotto di farlo mancare a Montecitorio, l'ha sfruttato, ovviamente il presidente di turno Ettore Rosato ha subito contestato dicendo che non è bene, no, gioire quando cambia il quando manca il numero legale. Però vorrei assicurare, per esempio, a tutti quanti i radioascoltatori che questo numero legale mancava sulla votazione di risoluzioni, cioè non si stava convertendo un decreto, non si stava votando una legge, era una votazione su una risoluzione di maggioranza riguardo alle parole del ministro Speranza. Quindi non è una votazione che è mancato sulla votazione della legge, di una legge, ma semplicemente un'approvazione, dire sì, approviamo quello che ci hai detto. Sarà fatto di nuovo domani alle 10, alle quindi 10. Nulla di sconvolgente, però ovviamente ognuno fa il suo gioco. Chiaro, però abbiamo detto appunto dagli ultimi aggiornamenti che questo DPCM che doveva essere firmato domani da Conte, addirittura slitta di una settimana, anche se invece una delle misure contenute, oggi sono uscite varie anticipazioni, che la mascherina sarebbe stata obbligatoria all'aperto per tutti, poi solo quando qualcuno è vicino a un non convivente, che poi diventa complicato anche lì, ogni volta che sei vicino a qualcuno ti vengono a chiedere scusa, è convivente con te oppure no. Pare che insomma per evitare complicazioni sarà obbligatoria per tutti anche all'aperto e si va addirittura verso multe da 400 a 1000 euro, Betta, eh? Allora, è chiaro che Speranza l'ha detto nel suo intervento, saranno mesi difficili in cui noi dovremo convivere con il Covid. L'Organizzazione Mondiale della Sanità oggi ha detto che probabilmente invece ci sarà presto un vaccino, tutti quanti lo speriamo, però è vero pure che se i numeri stanno aumentando, i morti oggi sono aumentati considerevolmente, no? Stiamo parlando 28 di 28 persone, quindi sono per 28 persone che non sono i 900 del famoso 29 marzo, però dobbiamo anche pensare che stanno sempre più aumentando. Prima facevo un po' l'elenco dei vari paesi europei intorno a noi, la Spagna, la Francia, il Belgio, la Gran Bretagna, no? Ti farei sentire però, visto appunto abbiamo citato più volte Speranza, che cosa ha detto, alcuni passaggi delle cose che ha detto oggi in Parlamento. Per esempio ha detto che bisogna vincere la sfida sanitaria per poter ripartire. Se vogliamo mettere nelle condizioni il paese di ripartire davvero, la premessa è vincere la battaglia sanitaria. Vincere la battaglia sanitaria è la prima mattonella se vogliamo far ripartire davvero l'Italia. E poi ha chiesto di recuperare quello spirito di marzo scorso, dei mesi nerissimi in cui tutta l'Italia si è stretta, no? E tutti ci sentivamo più vicini, tutti che si cantava dai balconi. Sentiamo. I prossimi mesi non saranno facili. E in questa sfida dei prossimi mesi, in attesa del vaccino, in attesa delle cure, noi abbiamo bisogno che il Paese ritiri fuori il meglio di sé. Penso che l'Italia nei mesi più difficili, l'Italia, non il governo, l'Italia, abbia dimostrato di essere un grandissimo paese. Noi abbiamo bisogno di recuperare lo spirito che ci ha accompagnato a marzo, ad aprile, a maggio. Quel grande spirito di unità con un paese che ha avuto la forza di stringersi a corte e di vincere la sfida drammatica che in quei momenti stava arrivando. E poi ha ricordato le tre misure essenziali di prevenzione. Sentiamo anche questo passaggio di speranza. Le tre regole fondamentali sono l'asse portante del DPCM che andremo a proporre al Parlamento, poi alle regioni nelle prossime ore. La prima, l'utilizzo corretto delle mascherine, uno strumento essenziale per contrastare la diffusione del Covid. Nel DPCM che ci accingiamo ad adottare, valutiamo l'estensione dell'obbligo dell'utilizzo delle mascherine anche all'aperto. La seconda regola essenziale, quella del distanziamento di almeno un metro, ed è quella del divieto di assembramenti. E per questo noi lavoriamo nelle prossime ore per aumentare il livello di controlli. E ancora il terzo punto ha a che fare col rispetto delle fondamentali norme igieniche e in modo particolare con il lavaggio delle mani. Ecco, dopodiché farei sentire un passaggio invece dello costituzionalista Alfonso Celotto, che più volte viene qui Effetto Notte, c'è stato anche nei giorni scorsi quando Conte aveva annunciato che ci sarebbe stato un nuovo DPCM e anche che avrebbe prorogato lo stato di emergenza sino al 31 gennaio. Facciamo un ripasso con quello che ci aveva detto, cosa consiste lo stato di emergenza. Lo stato di emergenza che cosa significa? Significa che il governo può assumere poteri straordinari. Innanzitutto il DPCM, che sarebbero le regole straordinarie in deroga alla legge che può assumere il governo per limitare, per affrontare casi straordinari. Dobbiamo ricordare che lo stato di emergenza è previsto dalla normativa di protezione civile e in genere lo stato di emergenza negli ultimi 20 anni è stato dichiarato in Italia 100 volte, però per zone molto limitate, perché un'alluvione, un terremoto, una frana creano lo stato di emergenza in una zona e quindi danno alle autorità poteri eccezionali in deroga alle leggi per affrontare l'emergenza. Ovviamente un'emergenza nazionale non era mai capitata e con la dichiarazione di stato di emergenza quindi puoi emanare il DPCM invece che le leggi, puoi fare appalti in deroga a gran parte delle regole, puoi continuare a fare lo smart working e puoi limitare l'accesso ai confini dall'estero, quindi limitare i viaggi. Questi sono i grandi filoni di intervento dello stato di emergenza. Però Betta, Fiorito, sentiamo che cosa ha detto oggi Salvini, leader della Lega, a proposito dello stato di emergenza. Quando torniamo al governo lavoriamo per reintrodurre qualche mese di servizio militare, servizio civile per le ragazze e ragazzi di questo paese. Hai fatto dell'arma, sì. Questa cosa non c'entra niente con lo stato di emergenza, è stato ripescato in qualche archivio di qualche anno fa di Effetto Notte. Invece Salvini 2 è chiamato il file, che dice sullo stato di emergenza, sappiamo che Salvini dall'inizio su questa cosa piuttosto contrario, riusciamo a recuperarlo? Sì, eccolo là. Non pensiamo sia necessario nessuno stato di emergenza perché con la normativa attuale si può proteggere e tutelare la salute degli italiani tranquillamente. Ma la situazione sanitaria non la preoccupa, l'aumento dei contagi? Ma gli italiani si stanno dimostrando di estremo buonsenso e quindi più rispettosi degli italiani in giro per il mondo ne ho visti pochi. Ecco Betta, quindi abbiamo fatto un po' un quadro, intanto cos'è? Sì, intanto io vorrei dire due o tre cose perché sabato è attesa a Roma una manifestazione sulla dittatura sanitaria. Manifestazione di negazionisti del Covid. Ci sarà anche Enrico Montesano. E ci sarà anche Enrico Montesano. Noi avremmo preferito vederlo magari su un palcoscenico, che piace, invece ci piaceva. Purtroppo invece sarà organizzata chiaramente da Forza Nuova e comunque dai No Mask, i cospirazionisti del 5G e tutti quanti i complottisti uniti. Ora, siccome credo che l'obbligo di mascherine sia appunto già in vigore da domani, io vorrei capire che cosa succederà se loro non indosseranno la mascherina e quindi ci saranno le multe da 400 a €1.000, così finalmente entra qualche soldo nelle casse dello Stato. Potrebbe essere una buona occasione. Domani potrebbe essere una buona occasione di sfruttare questa cosa ai vigili, no, di Roma, magari fare, rifare un po' di strade, di pavimentazione, visto che la sindaca dice sempre che non ci sono i soldi. Ecco, allora, domani lo chiederò al presidente dei funzionari di polizia, che tornerà, insomma, come nei mesi scorsi, a ricordarci un po' quali sono le sanzioni, che quali sono le norme che vanno rispettate. Volevi aggiungere una cosa, Beta, che però ti chiedo io in realtà. Sì. In tutto questo sono partiti gli stati generali del Movimento 5 Stelle o sbaglio? Ecco, e questa è l'altra notizia, invece questa è la notizia politica della giornata. La notizia politica della giornata è che Luigi Di Maio, dopo che le liti si susseguono nel Movimento 5 Stelle, cioè tra i vertici e la parte avversa che sono capitanata da Alessandro Di Battista e Davide Casaleggio, ha deciso di far partire gli stati generali, di non perdere più tempo, e quindi questi stati generali sono già partiti da oggi e arriveranno a conclusione il 7 e l'8 novembre in questo congresso possiamo chiamarlo così del Movimento 5 Stelle, dove arriveranno i rappresentanti dei territori, quindi di regioni e di province e di città, per votare il nuovo leader. E chi sarà il nuovo leader? Chi sarà? Sarà Di Maio, secondo me. Di nuovo. Però il problema, a volte ritornano. Sì. Sì, il problema è che bisogna capire che cosa farà Alessandro Di Battista e che cosa farà Davide Casaleggio, perché il reggente, chiamato erroneamente capo politico Vito Crimi, oggi ha detto che tutto questo percorso si compirà a Roma e poi ci sarà il voto degli iscritti sulla piattaforma. Quale Russo, piattaforma? Che è quella di Casaleggio, che però è entrato in conflitto, poi in contrasto da ieri con i vertici. Pare che i 5 Stelle, i vertici dei 5 Stelle vogliano cominciare a dire a Casaleggio che questa è una piattaforma di servizio, no? Non è più il blog, eccetera, e che i deputati non devono dare €300 per supportarla. E quindi dove votano? E hanno chiesto, attenzione a Davide Casaleggio, colpo di scena. In esclusiva mondiale? Sì. Le liste degli iscritti del blog dove si fanno le votazioni da un'altra parte, dici. Quindi secondo me finisce un po', potrebbe anche finire con qualche lite e magari la dipartita di Alessandro Di Battista e Davide Casaleggio, che faranno, non lo so, un altro movimento. Il movimento 3 stelle, 2 stelle. Vabbè, non lo so. Vedremo se ci sono le stelle, ma tu ci aggiornerai man mano su quello che succede. Sì. Grazie alla nostra Betta Fiorito. Grazie a voi. Ciao Betta, buona serata. C'è la nostra pausa di riflessione, voi continuate con i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte oppure al 349-238-6666. Filippo da Latina dice, per esempio, buonasera dottoressa Giordano, si è diffusa la notizia che anche attraverso gli occhi si può contrarre o trasmettere il Covid-19, questo con le normali attività lacrimali dell'occhio e della congiuntiva. Desidero sapere da Radio 24 se a conferma di questa notizia. Allora, in realtà si era già detto all'inizio che c'è anche questa possibilità, insomma l'importante è, in questo momento non ho un virologo in diretta, però si è sempre detto di non toccarsi neanche gli occhi e anche le lacrime, insomma di non entrare in contatto con le lacrime degli altri, ecco, se bisogna consolarli a distanza. Pensate un po' cosa siamo costretti, ma malgrado tutti, malgrado noi, non è colpa di nessuno. E ci sentiamo tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Avete paura la sera, fine giornata, di non sapere che cosa è successo in Italia del mondo? Non fate altro che ascoltare qui Effetto Notte. Roberto Giordano è con voi, vi racconta tutte le sere, dal lunedì al venerdì, quello che di più importante c'è da sapere dall'Italia e dall'estero, e poi approfondimenti con gli ospiti per chiarire una serie di argomenti in primo piano. Abbiamo parlato appunto della giornata politica e in particolare delle anticipazioni sul prossimo DPCM, decreto del Consiglio dei Ministri, che sarà firmato, però rispetto a quanto si sapeva doveva essere firmato entro domani, invece tra una settimana, ma già entra in vigore l'obbligo della mascherina all'aperto. E poi abbiamo sentito i vari passaggi del ministro Speranza oggi in Parlamento. Ora invece parliamo dell'evento digitale organizzato nell'ambito della partnership, della collaborazione tra il Sole 24 Ore e il quotidiano britannico Financial Times, che si intitola Made in Italy, The Restart, cioè la ripartenza. per il Made in Italy una 3 giorni di confronto a cui partecipano ben 5 ministri, 32 sottosegretari, 5 rappresentanti del vertice di Confindustria, tra cui naturalmente il presidente Carlo Bonomi, il governatore di Banca Italia Ignazio Visco, 40 imprenditori che rappresentano l'Italia del mondo. Ma per noi la seguito la nostra Anna Marino. Ciao Anna. Ciao Roberta, salve a tutti, buonasera. Ci racconti un po' in sintesi che cosa è stato detto, le cose più rilevanti sì. di questa prima giornata? Insomma, restart, cioè il rilancio, la ripartenza è credo diciamo un must in questo momento, una cosa molto importante. E oltre 9.000 persone si sono collegate, all'inizio addirittura erano 8.000, poi sono aumentate via via, cosa assolutamente in controtendenza per gli eventi digitali, in aumento di in ora per questa conferenza che si chiama perché sono 3 giorni di lavoro di Made in Italy, The Restart, organizzata online dal Sole 24 Ore col Financial Times. Sono, come dicevi, i ministri, istituzioni, associazioni imprenditoriali del tessuto economico per la ripartenza dell'industria, cioè tutti riuniti diciamo online per questo, perché la ripartenza dell'industria è decisiva, per dirlo con le parole di Mattarella in un messaggio dedicato alla 3 giorni di lavoro appunto di questa conferenza, decisiva per l'Italia. E il Presidente della Repubblica Mattarella in un messaggio appunto incoraggiato lo sforzo comune condiviso per il Made in Italy. Le risorse europee, ha detto, sono un'occasione storica per noi, la ripartenza è importante, e gli ha fatto eco anche il governatore di Banca Italia Ignazio Visco, che dice ci sarà la ripartenza ma sarà graduale e comunque dipenderà dalle politiche di stabilizzazione, dalle misure di recovery che saranno messe in campo, ma soprattutto dalla ripresa dei consumi, degli investimenti nel momento in cui diminuirà un po' questo timore della pandemia, e soprattutto ha sottolineato dalle piccole e medie imprese che devono crescere. Ecco, a questo proposito, scusami sì. Anna, scusami, sentiamo il ministro dello sviluppo economico Patuanelli che ha parlato dei diritti delle imprese, appunto come dicevi, sentiamo. È chiaro che è tutto più complicato per chi fa impresa, soprattutto è molto complicato prevedere gli investimenti necessari per far quel salto alle proprie imprese di innovazione, di digitalizzazione verso le tecnologie di frontiera. Io credo che si debba parlare dei diritti dell'impresa, e per questo uno dei collegati alla legge di bilancio che ho voluto inserire, ovviamente con il consenso di tutti gli altri colleghi ministri, è un disegno di legge sui uno statuto dell'impresa, che ritengo sia fondamentale iniziare a parlare di come garantire delle certezze a chi fa impresa. Questo Patuanelli, no Anna? Certo, perché ovviamente, come diceva Visco, le piccole e medie imprese devono crescere, e questo diciamo che ha affermato Patuanelli, il ministro dello sviluppo Stefano Patuanelli, e poi il titolo, come diceva il direttore del Sole 24 Ore, perché è un testo unico per le agevolazioni a partire dal super bonus per l'edilizia, è uno statuto per le imprese che abbia come obiettivo i diritti delle imprese, sono veramente due rivoluzioni per il rilancio dell'Italia. E poi c'è anche il capitolo sblocco delle opere, delle infrastrutture, opere pubbliche, e le misure del decreto semplificazione, l'elenco delle opere da commissariare, dice che è già pronto la ministra delle infrastrutture e trasporti Paola De Micheli proprio oggi, no? Come il piano sì. Italia Veloce, che dice porterà nel 2030 gli italiani ad essere a meno di un'ora dalle infrastrutture diciamo ferroviarie. Sentiamola De Micheli sui commissari. Abbiamo fatto il riordino dei poteri dei commissari, l'elenco delle opere da commissariare è già pronto, l'elenco dei commissari sta per uscire, a breve incontrerò il Presidente del Consiglio su questo, e lì abbiamo messo a regime le migliori esperienze commissariali che si sono realizzate nell'ultimo decennio in questo Paese, perché c'erano alcuni poteri ridondanti nel caso di alcuni commissariamenti ex lege, e c'erano altri poteri che invece erano totalmente assenti. Tutti hanno parlato tanto del modello Genova, anche da Genova abbiamo preso qualche esempio positivo, quelli più facilmente replicabili in altre situazioni, diciamo così, di opere pubbliche. Abbiamo preso anche esempi positivi del modello Expo, che era un modello commissariale che aveva poteri importanti. Questo ha detto la ministra De Micheli oggi, appunto, a questo evento in partnership tra Sole 24 Ore e Financial Times, Made in Italy, The Restart. Grazie Anna Marino. Ciao Anna. Grazie a te. Ciao. Buona serata. C'è la viabilità. Logica, spazio, tempo. Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Focalizziamoci adesso sulle notizie invece negli Stati Uniti. Raggiungiamo il nostro corrispondente Marco Valsania. Caro Marco. Buonasera. Ciao Marco. Allora, prosegue la saga di Trump, che appunto si è ammalato nei giorni scorsi di coronavirus, però ieri pare abbia forzato la mano ai medici dell'ospedale in cui si trovava per uscire, ha fatto un po' la sua uscita, come si può dire, così in pompa magna su una macchina presidenziale con i vetri oscurati. Teatrale. Sì. Poi sul balcone si è levato la mascherina, perché lui continua a essere restio, a tutti non piace, a chi piace tenere la mascherina, però se è necessario, e ha detto mi sento più forte e più in salute di 20 anni fa, non so come fosse 20 anni fa Trump, ma comunque, e prosegue insomma questo suo, diciamo, atteggiamento di negazione o di almeno sottovalutazione del coronavirus, perché ha lanciato il messaggio agli americani: non fatevi schiacciare, non abbiate paura, vedete che io sono guarito. Marco, tra l'altro, sì, su Twitter ha paragonato il coronavirus a qualunque tipo di influenza, e Twitter addirittura l'ha censurato, perché dice questa è disinformazione rischiosa. Esatto. Diciamo che Trump forse ha detto di aver imparato delle lezioni durante i primi giorni della sua malattia, sicuramente non la lezione di un cambio di atteggiamento, come ricordavi. Uscito dall'ospedale e ancora, diciamo, in realtà malato e a rischio, come ammettono i suoi stessi medici, è partito all'offensiva con attacchi, diciamo, tipici per lui, appunto. Ha di nuovo paragonato il coronavirus a una normale influenza, beccandosi appunto le censure di Twitter e anche di Facebook, che sono ancora più rare. Facebook ha tolto un suo post che appunto tacciandolo come disinformazione sulla pandemia. E poi Marco, la CNN, che ha esaminato i dati dell'Agenzia Sanitaria Federale Americana per la tutela della salute negli Stati Uniti, dice che sono morte più persone di Covid-19 di quelle decedute per influenza negli ultimi 5 anni, 210.000 solo per il Covid contro circa 178.000 in 5 anni di influenza. Sì, perché normalmente l'influenza in America negli ultimi, diciamo, anni ha avuto una media di tra i 30 e i 50 mila vittime all'anno. C'è stata un'eccezione nel 2017 di 80 mila vittime, però appunto è stato un anno eccezionale. Il coronavirus appunto in 6-7 mesi ha fatto oltre 210 mila vittime, e una stima come in tutto il mondo probabilmente, ma una stima che è sicuramente diciamo così prudente, perché in realtà non conta molti decessi. Marco, ti chiedo una cosa prima di lasciarci, tanto questa cosa continuerà fino alle presidenziali del 3 novembre, ma qualche complottista, cospirazionista eccetera eccetera, insomma, dice: ma non è che Trump, tutta questa è una montatura per far vedere, invece non è malato, per far vedere che lui è il presidente più forte, che è riuscito a vincere persino il Covid-19, adesso dimmi proprio in una battuta. Sì, no, gira di tutto, diciamo, su internet, compreso questo, proprio perché, diciamo, che a volerlo leggere, diciamo, politicamente, che forse è la lettura più logica, e dimostra quanto la credibilità sia scarsa in questo momento, sia di Trump, e in generale quanto il clima nel paese sia confuso, di caos e molto difficile. Un momento molto delicato, sì, molto ricordiamo delicato, esatto, sì. Che giusto per aggiungere due, sì, parole, solo oggi l'intero vertice del Pentagono è in quarantena per rischio di contagio. Trump ha appena rotto i negoziati con i democratici per un nuovo pacchetto di aiuti economici sul coronavirus, facendo cadere i mercati, e ha detto però che sarà al dibattito presidenziale tra una settimana, quando sarà probabilmente ancora contagioso, ma ha detto che lo vorrà fare, che sarà un grande dibattito. Beh, questo solo per dare alcuni titoli dell'enorme tensione e confusione che c'è che in questo momento, questa campagna elettorale. Grazie Marco Valsania dagli Stati Uniti. Ciao Marco, un abbraccio. Och med andra hälften gemensamt till Reinhard Genzel och Andrea Ghez. L'annuncio oggi in svedese, sentite, dell'assegnazione del Nobel per la fisica 2020 per metà Roger Penrose, che è un britannico, mentre condividono l'altra metà Reinhard Genzel, tedesco, e l'americana Andrea Ghez. Questo Nobel premia la scoperta degli oggetti più oscuri, più misteriosi dell'universo, che sono i buchi neri. Però voglio chiedere al professor Roberto Auzzi, cosmologo della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturale del campus di Brescia dell'Università di Cattolica. Buonasera professore, è l'Università Cattolica. Buonasera. Professore, ci dà l'idea, ecco, so che sarebbe un discorso molto lungo, abbiamo proprio 2 minuti, di che passi si sono fatti avanti su questi mostri che inglobano tutto quello che si avvicina a loro, questi buchi neri, tutto finisce, la materia che è intorno a loro. Cioè, li viviamo un po' come dei mostri, però si sono fatti dei passi avanti proprio per queste scoperte. No? Sì, ma si sono fatti diciamo degli enormi passi avanti nell'andare a caratterizzare l'identikit di questi buchi neri. Se vogliamo, la storia dei buchi neri inizia già nel Settecento, già lì Michel e Laplace avevano ipotizzato l'esistenza di stelle così dense che un campo gravitazionale così forte che neanche la luce potesse uscirne. Diciamo il buco nero, diciamo da un punto di vista teorico, nei primi del Novecento Schwarzschild nel 1915 aveva trovato la prima soluzione del buco nero a simmetria sferica. Cos'è l'idea di un buco nero? È una stella così densa che anche neanche la luce può uscire da un buco nero. E allora com'è che possiamo vedere un buco nero? Nel senso, è nero per definizione. L'idea è che noi possiamo vedere un buco nero se noi osserviamo gli effetti che ha sulle stelle vicine, perché l'attrazione del buco nero ha un effetto sul moto delle stelle che orbitano intorno al buco nero. E le persone che sono state premiate oggi sono state premiate per dei contributi essenziali nella fisica dei buchi neri, in particolare il fisico teorico Roger Penrose ha dato dei contributi essenziali, in particolare ha dimostrato che il collasso gravitazionale avviene in maniera generica, non dipende dal fatto che un buco nero ha una distribuzione di materia sferica, però che ha praticamente dimostrato che qualsiasi oggetto abbastanza denso alla fine collassa in un buco nero se c'è abbastanza densità di materia. Sono un po' i buchi neri, un po' il triangolo delle Bermude dello spazio, professor Auzzi, se volessimo dire. Possiamo pensare così, infatti. Immaginiamoli così. Dove finisce la roba che finisce, la materia che finisce dentro i buchi neri? Non si sa, se no si conoscerebbero meglio i buchi neri. Non lo sa. Tecnicamente finisce nella singolarità, che praticamente dentro il buco nero c'è una zona dove... Perché un buco nero noi lo descriviamo con la relatività generale, quello che sappiamo è che la relatività generale ci dice che all'interno c'è una regione di cui essa stessa non ci può predire il comportamento, è un grande mistero. Grande mistero, e per il momento restiamo col fascino di questo mistero oltre al premio Nobel. Grazie professor Roberto Auzzi, grazie professore. Buona serata. Di nulla, buona serata, arrivederci. Arrivederci e ci riaggiorniamo naturalmente alle 22. Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it.